Yeah, avanti. Salutore da Ricco, Daniele da questa. Da dove moduli? Da Parrogero, ben sentito da Usiro, qua doppia Sierra. Va bene, stai arrivando con un rapporto segnale 4. Hai migliorato dal giorno alla notte, adesso sei segnale 7 radio 5 di lusso. Da Parrogero, dai. Sono qua, stazione fissa verso l'uscita di Viale Italia, dai. Va bene, sto usando 5 watt, dai, originali della radio. Va bene, con una antenna, una Ringo. Va benissimo, va benissimo. In attesa che arrivi l'altro, che è dal dottore, l'altro apparato, e quello spinge leggermente di più, Sì, no, io questa, vabbè, la sto provando, perché devo cambiarla, e stavo pensando proprio di prendere un Energy 5 ottavi, ma anche una mezza onda va bene, perché non c'ho possibilità provvisoriamente di mettere antenne con radiali. Però per adesso guarda, io ho uno di stazionarie, è messa, insomma, quando piove e tutto, l'ho già provata, e il rosso è sempre basso, diciamo, non mi posso lamentare, guarda. Scappa del Rogero. Sì, perché è un problema di queste antenne del Ringo, che poi alla fin fine c'è, diciamo, il piantone dove c'è la bobina, che a lungo andare va a scendere. La mia sì, lo stesso, si sfila dal collettore, diciamo, dove c'è il piantone, la bobina, però adesso è provvisoria, così va bene. Bisogna mettergli una vite passante e lasciarla fissa, così non si sfila più. Però per adesso, guarda, non mi posso lamentare. Arrivo sino a Osilo ed è di lusso. Ciao Francesco, è la ora che ti facessi sentire di nuovo. Caspita, già è un giorno. Dopo mi dirai come mai tutta questa assenza. Ciao Daniele, a parte Daniele. Caparrogio, ciao Gianni, ben sentito. Ciao Giulio, ben ascoltato anche a te. Dammi un rapporto segnale, Giulio. Prova, aspetta che metto che per i binocoli. Vai. Guarda quei binocoli, guarda bene, mi raccomando, neanche un millesimo, guarda bene, 1, 2, 3, 4 e 5. Modulati 8, 7 e mezzo, modulati 8, ciao Gianni, ben entrato, avanti. Buonasera a tutti, buonasera a tutta la ruota, ben sentito Urano di Augiro, qua Gianni lo profeta, centro storico Sassari. Forse non ti ha sentito, Francesco, hai sentito Gianni Lubrefetta da Sassari? Cappa, sempre Daniele. Sì, io che purtroppo sono accerchiato a milioni di palazzi, io sono il più basso, capito? Sono palazzi di 5 piani, io ce l'ho, sono 3 piani, si può dire, quindi sono piccolo e nero. Per quello è anche troppo quello che sto facendo, nella posizione in cui sono. Va bene, dai, mi sento 5 minuti, a te il microfono, Giulio. D'accordo, da lì, a dopo allora, dai. Allora, per te, raccontami, come mai tu dai questa assenza? Cosa ti è successo? Qualcosa alla stazione? E poi mi dici, mi dai notizie anche di Gianni, anche lui, sarò qualche annetto senza sentirlo. Come mai? Ok, sì, ho capito Francesco, d'altronde, quando puoi lo fai riparare, così lo recuperi in qualche maniera, certo, già si può fare, se è così. Interessante che l'apparecchio funzioni e va bene, se funziona 12 volte vuol dire che l'apparecchio non ha niente, è solo una questione di alimentazione. Va bene, dai, facciamo girare poi Gianni da Sassari. Avanti Gianni. Un'altra buonasera di nuovo a Giulio, ben sentito Francesco Uranio da Ogiro. Ascolta Francesco, dimmi come ti sto arrivando lì su in punta. Che sono curioso di sapere come arrivo lì di segnale. 1, 2, 3 per Francesco Ogiro, cambio. Sì. Grazie. grazie mille, sto uscendo con un attenino di macchina, Francesco, quindi anche se no, tra virgolette, non ho molti ostacoli davanti, ho sempre un attenino di macchina, quindi va benissimo. Adesso invece lo chiedo a Giulio, ho messo il cavo nuovo, quindi voglio un rapporto anche da te Giulio, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok Gianni, sopra pieno, sopra pieno pieno, va bene così. Ha migliorato rispetto a quando c'era la giunzione con quell'altro cavo, va bene, adesso non per pieno, va bene così, nessun problema, riprendi, vai. Kappa, grazie, sì, praticamente ho staccato il vecchio, l'unica giunzione che c'è tra la fine del cavo nuovo e l'antennino sul tetto. Adesso vogliamo fare un esperimento con Daniele, mi presta, facciamo un esperimento con la boomerang, quella grande, piazzata su, e vediamo un po' come cosa ne esce fuori, sono sicuro che miglioriamo sia di segnale e tutto il resto, vediamo un po' cosa succede, lo sperimenteremo prossimamente. Ok dai, avanti Francesco. Vai Francesco. Riprendo io, sono Daniele comunque. Daniele, Gianni è quello che c'ha l'antennino della macchina piazzata sul tetto. Kappa, l'ho portato da uno qua in Sardegna, io ho dato un 48, il gemello di questo, che è modificato a farlo mettere a posto, e me l'ha fatto partire. Me l'ha fatto partire ed è bravo. Ed è bravo. Qua no, vabbè, non fa dirtelo qua in frequenza, comunque. Se conosci a Giulio, Giulio c'è il tuo numero, te lo fai dare, oppure mando il contatto a Giulio, gli do il numero e ti metto in contatto. Non so chi mi hai dato, Daniele, non sono informato io, però il problema è quello, che io non sono informato. Ok, no, stavo dicendo, volevo dire a Daniele, ma io non ce l'ho il numero di Francesco, se non glielo avrei dato, sì, il tuo numero, per cui non ce ne sarebbero stato, ma io non ho il numero di Francesco, quello è il problema, Daniele. Kappa, però c'è il numero di Gio Maria. Sì, il numero di Gio Maria, sì che ce l'ho, certo che ce l'ho, io ce l'ho questo. Io l'ho girato a te il numero, Giulio, e tu tramite Gio Maria le lo fai avere. Le lo fai avere. Va bene, così. Tiro nome e il numero, è così. E mi dici anche dove fammelo o su vocale fammelo. Su WhatsApp o Daniele e poi mi dici dove è anche la via di questa persona che mi parla, capito? Fammelo vocale però. Kappa Roger Giulio, dopo te lo mando, dai che c'ho il telefono giù. Io sono sulla mia stanza ricavata, dai. Va bene, va bene. Riprendi Gianni. Kappa, Daniele, ti ho mandato un messaggio su Telegram. Niente, ho aggiunto il contatto qua su Telegram. E niente, giusto per avvisarti. Bene, Meda, quindi Francesco ha... C'è praticamente l'infermeria piena di apparati da mettere a posto, ragazzi. Uioia, crocro. Va bene, ok, dai, avanti Francesco. Sì, d'accordo Francesco, dai. Prendo la penna e così lo scrivo. E così poi ti chiamo, avanti. Dopo che mi manda il messaggio Daniele, poi io ti chiamo. Aspetta, un minutino, prendo la penna, qui, aspetta, mi devo spostare. Vai intanto Daniele, Kappa Rogero, dai, rilancio l'antenna per Gianni, dai, che io ti mando queste coordinate qua. Eia, bene meda. Adesso sicuramente piano piano si farà vivo anche qualcun altro. Speriamo bene, dai. Qualcuno c'è sempre sul 10, dai, Giulio era qualche giorno che non entrava, l'abbiamo nominato stamattina, visto? E alla fine nominato, poi alla fine è uscito fuori. Va benissimo. Quindi Francesco, le tue esperienze con le antenne praticamente sono tutte particolari, così è. Ho visto che hai avuto diverse esperienze, quindi hai altri consigli da dare. Cappa Rogero, proprio quasi alla fine, dai, tra Via Italia e Via Budapest, sono in mezzo. Daniele, allora Francesco, mandami il numero, via. 338 710 91 54, va bene, d'accordo, dopo ti chiamo quando mi manda il messaggio. Daniele, ok, sì, avanti Gianni, riprendi, scusa. No, no, vi siete parlati sopra forse poco fa. No, no, nessun problema, nessun problema. Francesco, io sono centro storico, la parte bassa del centro storico di Sassari. Zona stazione ferroviaria per intenderci, siamo lì quasi, dai, siamo nelle vicinanze. Eia, bene mera, sono contento che mi ricevi, dai, io ho un vecchio apparato veicolare giapponese degli anni 70, quartato. Quindi veicolare, non so se 5 volte ci arriva. Quindi un vecchio veicolare quartato con l'antenino di macchina, se arrivo su Ausilo già va bene, dai. Gianni, avanti. Stavo guardando, quella foto di Telegram tu sei? Kappa. Ho capito chi sei, dai. Bene meda. C'è una moto grossa all'epoca? Sì, adesso è ferma la moto, Kappa Rogero, dai. Va bene. Avanti Francesco, avanti. C'è un Kawasaki 1200 naked, nudo, non è scarenato. Dovrei andarlo a riprendermelo perché è in campagna da un amico. Devo riportarlo qua a casa. Sì, è fermo da un po' di mesi. Sarà pieno di polvere, è coperto, è tenuto al chiuso. Devo solo comprargli la batteria nuova e riportarlo a casa. Bene meda, dai, tutto assortito, tra fuori strada e vabbè. Ok. Sì, appena possibile andiamo a recuperare la bambina. La riportiamo qua a casa. Ci sono forse un po' svariate cose da cambiare, dai, comunque piano piano ogni cosa ha suo tempo. Va bene, non voglio monopolizzare la ruota. Avanti Giulio. Ok. Francesco, ma come mi senti di segnale lì? E poi anche del radio? Io non ho più l'antenna tubo, non ce l'ho più quella. Cioè ce l'ho l'antenna ma non è piazzata. Ho il dipolo in verticale. Avanti, Francesco, dimmi com'è il mio segnale lì da te. Ok, d'accordo Francesco, sì, no, ma è anche bassa, è un dipolo in verticale, diciamo che un'imitazione della Game Master, però è un posto molto basso, non è più dove era prima, se non sarebbe stata almeno 6 metri più in alto, sarebbe stato, senz'altro un segnale sarebbe stato anche un pochino superiore, però mi sembra che più o meno siamo allo stesso livello di quando avevo la Mantova Turbo, cioè, tu te lo ricordi più o meno il segnale? Ok Francesco, sì, no, in verticale, senza radiale, senza niente, è una canna pesca, poche parole, e dunque, se puoi immaginare, va bene, la conferma che ho fatto un buon lavoro, allora, dai. Così è, perché tutto sommato non ne vale la pena di spendere tanti soldi, basta costruirsi un'antenna, con pochi soldi uno ce l'ha, ma pochissimi veramente, a livello di 30-35 euro, non di più, e ha l'antenna performante. Va bene, fai da niente. Kappa Rogero, la mia è venuta a costo zero. Tanto meglio. Tu la stai facendo arrivare da fuori, Daniele? Lasciate un attimo di bianco, c'è gente che sta chiamando, buonasera. Buonasera, noi non sentiamo nessuno, non ci abbiamo lavato le orecchie stasera, dunque non sentiamo nessuno. Vediamo chi è questo che sta chiamando, avanti chi è che chiama? Io non sento nessuno. Eugenio, non ti sente nessuno. Eugenio, lappati tutto. Butta tutto di dentro. Non ti sentono Eugenio, non ti sentono. Vabbè, proseguite, sto facendo cosa. Ciao Francesco, ben ascoltato, ciao a tutti. Ciao Claudio. Va bene, riprendi Gianni. Ciao Claudio, buonasera, ben sentito. Io, Eugenio, per un paio di secondi è venuto fuori dal QRM, ma non si capisce assolutamente nulla. Quindi vabbè, non credo che mi senta. Comunque nel caso, ben sentito Eugenio. E niente, dai, rilancio per Francesco. Avanti Francesco. Non ho cambiato niente Gianni, c'è il baracchino acceso. Continuate che vi sto ascoltando. La buona storia brutta era quella. Vabbè, ma non vuole sempre che pensare di fare a tutti i dini, e vedi a me se i ragazzini della primavera. No, me la fatti nulla la Juve, no, no, c'ho una distretta e non sono in forma, vi sto ascoltando ma non io voglio, beh. Un'azione brutta quella, dell'A87, proprio il primo che me lo dice, A87 con il microfono normale. Mi dice le modulazioni come te dici. No, io dico la pazzia, il buco, di qua. Avanti Gianni! Ho visto che Francesco sta facendo un po' di confusione. Allora, io sono Gianni e sono il motociclista. Daniele è quello della Ringo. Per intenderci, così almeno siamo più sicuri. Dai Francesco, vabbè, non ci sono problemi, figurati. Vabbè. Niente, ok. Visto che se no non ti comprendiamo più. Avanti Daniele. Ehi, capo a Roger. Ciao Cla, ben sentito comunque. Vai a te il microfono Francesco, dai che me la sento 5 minuti. Blackout. Francesco, riprendi, ti ha rilanciato. Sì, vabbè, ti allontanate evidentemente. Dai, la colpa è tua, perché tu ci hai abituato male a lui, ti fai sentire una bella radio come sempre, e allora mi vai a sentire una bucaglia del genere, chiaro che ti dico una pazzia. Poi sì, sto scherzando. Comunque non mi piace la modulazione di quella là, è bruttissimo. Vai, dai Gianni. Meia. Sì. Ci siamo sentiti anche ieri, se non sbaglio, ieri con... lo stava mettendo a correre, come si dice, quindi per fargli sgranchire un po' i transistor, quindi già fa bene ogni tanto far ripartire le vecchie apparecchiature, così almeno non si ammuffiscono e rimangono sempre attive e sempre in forma. Bene meda. Vabbè. In quel RX, lo salutiamo di nuovo, ciao Cla. E niente, avanti Giulio, poi vediamo se Francesco ritorna. Ok, io rilancio a Daniele perché ce l'avevo appena rilanciato io. Vai Daniele è caduto dalla sedia e dunque non c'è. Vabbè, allora qua, prendiamo una pastiglia, dai. E canta la canzone. Prendiamo una pastiglia, tieni a me. Mi sto guardando al Napoli. Vabbè, dai, no, non io voglio giù. E da ieri sera ce l'ho sto male in testa a cervicale, non ci va nella vita. Sono appoggiato alla sedia, sono a 2 metri dalla radio. Non io voglio. Se mi passa ci sentiamo più tardi, se no continuate voi. Eccetera eccetera. Va bene, qua. Allora riposa così che ti prendi. Bene, vediamo se è diventato Francesco, sei diventato? Chi è quello? Non ti sento però, se sei tu Eugenio, non ti sento, sei troppo basso, sei nel sottofondo, anzi nel sottoscala, sottoscala. Non si capisce niente quello che dici, io non capisco niente. Tu l'hai capito Gianni? Appena sopra il QRM, ma è incomprensibile. Comunque ciao Eugenio, si ricopri. Sì, a Porto Torre se non lo senti Giulio. Oia. Santiago 8 sta arrivando, Eugenio. Ottimo. Adesso sto cominciando a sentirlo, ma poc'anzi no, a una radio passa. Santiago 8 alla 10.5 qua, al posto di Porto Torre. Vabbè. Oia. Vabbè. Riprendi Gianni, riprendi, dai, ci sentiamo dopo. Ciao Eugenio, ciao, vi saluto a tutti Eugenio, ciao. Sì, adesso questo passaggio ti ho preso, Eugenio, buon lavoro, buon proseguimento, Santiago 3, Radio 2. Ciao Eugenio, adesso che stavo incominciando a sentirti, ti si alleni, però attrezzati, perché io mi ricordo quando c'era già nella portatore, se arrivava bomba qua, tu invece hai sempre delle difficoltà a farti sentire da me. Va bene, già, ci sentiamo alle prossime. Ciao, ciao. Daniele, sei rientrato? Daniele, non è rientrato. Francesco, sei rientrato? E ti sta ascoltando, mi sta ascoltando anche Antonio Riserva e vi saluta a tutti. Ti va salutato ancora, non l'avete inteso. Ciao Anto. Sta parlando? No, non sta parlando adesso, vi ha salutato e basta, avete salutati. Ah, ti ringrazio. Ciao Antonio, ti sta salutando, un giorno senza vedersi. Vabbè, dai. Ricordati che mi puoi trovare sempre al solito posto, la mattina però, la sera no, ma la mattina sì, ci sentiamo eventualmente. Ciao, ciao a tutti, mi stai ascoltando. Avanti Gianni. Ehi, ciao Antonio, anche se non ci siamo sentiti sul canale, vabbè, comunque. Sì, Daniele si è assentato 5 minuti, Francesco non pervenuto, deve essere avuto qualcosa di più importante da fare all'improvviso, quindi vabbè, no problem. Dai, sono contento che adesso Giulio mi ricevi meglio e che il segnale sia migliorato, grazie. Ci siamo visti in verticale con Claudio, mi ha passato il capo. Ma non male, c'è la torre di controllo che ascolta tutto. Niente, quindi adesso... Giusto per non fare... dobbiamo andare a provare con Tino, con Franco, e poi nel coche manco la tirottica. Vabbè, dai. Sì, ho capito Gianni. Ho capito, va bene, no, è migliorato sicuramente, ma era ovvio che si migliorasse, perché il segnale prima era 8, adesso è 9, dunque significa che il disadattamento c'era ed era abbastanza evidente. E un punto S significa qualche decibel in più, per cui, perché il rapporto decibel Santiago è tutto un'altra diversa cosa, però ci vogliono diversi decibel per poter avere un Santiago in più, e di che hai migliorato sicuramente. Vediamo se è rientrato Francesco da Urgelo. Ci sei Francesco? Ecco, ma... Sì, vuole fare qualcuno là, ma c'è stato un break, va bene, non ce l'è così, No, io mi ero notato perché mi stavo scolando la pasta e ho dovuto rispondere la pasta. E niente, tutto qua, va bene, oggi al centro. Perfetto. Beh, adesso Claudio è ritornato con la sua modulazione della potenza, quella di prima. È la potenza la stessa, però diversa. Molto diversa, evidentemente è cambiato parecchio. Ok. Va bene, perfetto. Niente, va bene, riprendi Giulia, va bene. Dai, riprendo io per Giulio. Giulio, ora che te l'ho mandato io il messaggio, Ah, va bene, d'accordo. Dopo, fra un po', come sta caricando il telefonino, no? Fra un po' lo leggo, lo ascolto. E così, poi ti chiamo, Francesco, dopo ti chiamo, dai. Il messaggio me l'ha già mandato, per cui il telefonino sta caricando. Per cui, fra un po' te chiamo, Francesco. A dopo. Avanti, Gianni. Ho sentito che Claudio mi ha parlato un po' sopra poco fa. Vabbè. Sì, adesso mi sono distratto, stavo guardando, ci ho messo il telefonino in carica. E niente, adesso mi sono anche dimenticato cosa volevo dire. Comunque, sì, come stavi dicendo tu, già un punto più su già è tanto. Adesso vediamo di aggiungerne, di aggiungere qualche altro mezzo punto, vediamo forse ce la facciamo. Io voglio provare a mettere una scarpetta qua sotto, a vedere cosa succede, andare con il watt che avevo prima sotto. Sì, sì, beh certo, già è importante. Ascolta Francesco, volevo chiederti, tu la Energy l'hai comprata di recente? No, perché per sapere quanto costa, se me lo puoi dire. No, non è una tenda che ho comprato, questa veramente me l'hanno prestata, non è la mia tenda, capito? Non è la mia, me l'hanno prestata. Provvisoria, capito? È provvisoria, niente, non mi pare che costava sulle 90 euro, mi pare che la voleva su alla CBC da Torino. 90 o 100 euro mi pare che la voleva, non lo so adesso. Comunque quella che sto usando io è un negativo nuovo, perché ripeto, è una serie che mi hanno prestato, è una cosa provvisoria, così tanto di poter entrare in frequenza finché non ho disponibilità a ricomprarmela io. Niente di particolare, a te Giulio. Ok, ho capito, sì. Vabbè, è a circa 9,90 è in continente, ma quando cominci a considerare anche il trasporto, 70 è in continente più il trasporto, perché si avvicina molto, si avvicina molto anche a quella al prezzo della GBC. Vabbè. Avanti Gianni. Sì, sì. Ieri dopo tanto è entrato Marcolino. Ci stava spiegando un po' di cose sulla Energy, ce l'ha montata lui e quindi ci ha dato il suo feedback, ci ha fatto la sua recensione e lui si trova molto bene. Poi a prova di quello che dice, poi vabbè qua arriva pulitissimo anche agli altri, quindi ce l'ha anche Eugenio di Porto Torres, la Energy, che anche lui dice che è soddisfatto, quindi magari hai trovato proprio l'antenna, quella praticamente non difettosa, ma insomma l'antenna non performante, dai, ma può capitare come in tutte le cose che si acquistano, beccare il pezzo sbagliato, vabbè, ma penso che non ci siano problemi. Uia. Va bene, avanti Francesco. Sì, comunque non lo so, io chi vuole comprare Energy, secondo me non la consiglio proprio, perché io dovuto fare su una modifica su al bocato dell'antenna, perché se no non andava. Quell'antenna lì non va bene. Più che altro io l'ho collegato il cavo tutto, sono sceso qua in stazione e sì, vabbè, stava funzionando, dopo tutto un tratto è sparito diciamo la ricezione, è sparita, capito? E allora l'ho dovuta riscendere e farci una modifica su al bocchettone. Ci ho messo, ci ho aggiunto una T che ha abitato diciamo la T al bocchettone dell'antenna e il cavo diciamo dall'altro lato diciamo orizzontale, capito? Una T ho dovuto mettere, così va benissimo, va bene, senza quella lì non è l'antenna, sì, funziona, sì, rimane un po', funziona, dopo sparisce la ricezione, poi non c'è più niente, e c'è anche stato la ripresa, tanto per iniziare. Ok, non lo so se sia questa che sto usando io, ma perlomeno c'è quel difetto lì, ok, perché me l'hanno già anche, diciamo, chi aveva questa antenna me l'ha già, diciamo, anticipato da prima che avevo il difetto lì. Ok, va bene, dai, niente di particolare. Riprendo di nuovo io. Francesco, qual è quella? La mezz'onda è una 5 ottavi, quella lì? Non lo so, può deve essere 5 ottavi, mi pare che sia. Se è radiale è 5 ottavi. Mezz'onda, della Energy, se non... per chi la compra magari per non fare confusione. Va bene, dai. Oh Daniele, ma tu cos'è che hai ordinato? Quale antenna hai ordinato? A me ancora ho ordinato, si può dire, di ufficiale niente, Giulio. Io sono andato da quella che la vende, diciamo, qua a Sassari, chi ce l'ha? dove stava dicendo Francesco, dice che erano in arrivo e ancora non è arrivato niente. Però ieri poi stavo parlando con Marco, mi ha detto un po' le lunghezze radiali, però sono troppo lunghi, capito? A me serve un'antenna dritta senza radiali, perché se no non riesco a scavalcare la mantovana, mi viene male, è troppo pesante, poi tra palo e antenna è un macello. Ho capito, Daniele, la berretta, costruiscitela, la berretta che è leggerissima, poi te la porti con una mano, la puoi piazzare poi, non con tutte e due, con una sola mano, soprattutto per farla vedere mettere tu. La berretta, costruiscitela, dai a pedire le antenne che arrivano, che anche costano abbastanza. Va bene, dai, avanti Gianni. Eia. Io ho scaricato, c'è un video, vabbè, Giulio lo conosce, su YouTube di un ragazzo, Radio Killer, alias Francesco, che fa, c'è in un video praticamente un tutorial dove spiega benissimo praticamente l'autocostruzione della Game Master con la canna da pesca. Dà tutti i dati, tutte le specifiche, tutte le dritte per costruirla, poi fa il test, la caccia alla radio e la prova. Quindi Daniele, ti consiglio di andare su YouTube e cercare Francesco Radio Killer. C'è il video sulla Game Master autocostruita, ti consiglio di dargli un'occhiata, sono sicuro che magari qualche spunto interessante te lo può dare. Poi con i vari strumentini, vabbè, fa il test lì in diretta e dimostra anche l'efficacia e delle basse stazionarie che ha quell'antenna. Avanti Daniele. Cappa, forse l'ho visto quel video, perché ne ho visto veramente tanti che non mi ricordo neanche più di tutti questi tutorial, diciamo. E va bene, sì, vabbè, ma mi rendo anche conto da come sta uscendo Giulio, che è perfetto, che è come, funziona come un'antenna normale, diciamo, cioè non è che non sia normale, però risuona abbastanza bene, si vede. Riprendi Gianni. Ehi, guarda, se mi ricordo il link di un altro video di un ragazzo della zona di Trieste, anche lui spiega benissimo come costruirla e poi fa anche il test. Se mi ricordo il link del video, ti posto il link del video su Telegram, così te lo guardi. Anche lui fa bene le specifiche, dà tutte le dritte, però rispetto a Francesco magari dice qualcosina in più. Nonostante Francesco sia preciso, lui aggiunge qualche dettaglio in più. Adesso se trovo il link te lo mando, così magari ti guardi anche quello se non l'hai visto. Va bene, dai, facciamo venire avanti Francesco, avanti. Sì, ok. Perfetto, Roger, va bene. Non sapevo questa, o Giulio, non so se questa sia mezz'onda o un quarto onda, o di 6 minuti, non lo so, comunque a me mi piace, perché come stavo dicendo poc'anzi, è provvisoria, dopo non vuole cambiare, non ce la faccio, Marco per la telecamera con la lista sul tetto. Non mi piace, a me mi piace ogni altro lunedì, per i massicci, no, quella lì non mi piace. Ok, e poi come stavo dicendo prima, ho dovuto fare quella modifica lì, se no non andava, e c'era pure Ross, tanto per iniziare. Fatto quella modifica lì e sparito tutto, la tenda va benissimo, non lo so, da quello ripeta, boh, fissa gli spiriti, non lo so. Va bene, niente, dai, riprendi Giulio, dai. Ok, non so, quello già è vero. Vabbè, comunque, ognuno pensa come fare, per cui non ci sono problemi. Io ripeto, ce l'ho sempre, ma tu non ce l'ho sempre, però penso che non lo piacerò più, penso, ce l'ho, me la tengo, ma non mi interessa più, devo dire la verità, visto considerato che funziona bene questa, è leggera, tranquillamente, quando mi piace la tolgo giù con una mano e basta, senza bisogno di fare sforzi, niente, va benissimo, va bene anche dove, anche nella posizione dove, al limite se decido adesso l'estate quando ci sarà la propagazione di metterla nel posto dove c'era la volta dal tubo, che è molto più in alto, così sarà ancora più performante, almeno per fare i collegamenti. Questa strategia va bene anche così, così come, per cui non ne ho di pretese assolutamente. Vai Gianni. Forse ho trovato il video dall'incarico Daniele del tizio della Game Master. Adesso magari lo cerco, ti mando il link Daniele, così non so se l'hai mai visto, probabilmente sì, chi lo sa, comunque sarei tu a dirlo. Ti mando il video anche di questo qua e così gli dai una spirciata. Avanti Daniele. Scappa Gianni. Dopo me lo guardo, dai, mi sono lasciato nuovo il telefono giù. E va bene, un macello con queste antenne, un macello. Per me sì, almeno. Non c'è tanto posto di manovra, diciamo. Francesco, quella c'ha i radiali, quell'energy è una 5 ottavi. Capa Rogero, ciao Doppio Room, avanti con la buonasera. Ma buonasera, ho fatto breccata. Buonasera a tutti. E allora particolarmente non ho tutto visto. Aumenta con la radio Gianni, ciao Gianni, aumenta per la radio Gianni. Guarda, com'è? Va bene. Lo sai cos'è? Che lo sono operato l'altro giorno, magari i pulsori del microfono li ho toccati senza volerlo. Buonasera a tutti, ben sentiti. Avanti Daniele di nuovo che mi ha fatto entrare qui a girare. Capa Rogero. Gianni, dammi un controllo segnale alle tue parti, com'è adesso? Opa. Guarda, 9, 3, 4 e 5. Quasi, 9, 10, 9, 5. Va bene, dai. Vai a te l'antenna, Gianni. Capa, buonasera, Doppio Room, ben ascoltato. Sì, in effetti avevi bisogno di un po' più di volume, perché sembrava che stessi parlando da un'altra stanza. Bentornato, ben sentito, ben ascoltato, avanti Doppio Room. Magari ho toccato anche il macchinetto, devo controllare se faccio gli occhiali. E allora ti parli tu, l'energy, già, cosa dici? No, perdonami, non ti ho capito, dimmi già. Ho detto, cosa hai deciso? Ti autocostruisci l'energy, la Val Energy, la Game Master. No, adesso, grazie a Daniele, vogliamo fare un esperimento, lui praticamente è disposto a fare un esperimento, mi presta la boomerang, quella grande, e voglio metterla al posto dell'antenna di macchina, credo che sicuramente andrà molto meglio. Ma secondo me passa tutto di più fare la leggete direttamente, quindi non ci pensi più, se no stai sempre cambiando. La boomerang è bella, è buona, ma è solo direzionale, è un'altra direzionale, non è che fa, che la sarebbe fatta di certa roba, è più troppo, non c'è nessun problema. Vabbè, provare Gianni non costa niente, è una cortesia, quindi facciamo questo esperimento. È tutto assolutamente a costo zero, è solamente una prova, poi vediamo cosa succede. Però a livello provvisorio non costa nulla fare un esperimento. Sono sicuro che migliora rispetto all'antenino che ho adesso, quindi tutto è tutto grasso che cola, come si dice. Pronto, non vada a sapere. Va bene. E tu ma dove sei a posto l'antenna, Gianni? No, ti era caduto qualche radiale, mi avevi detto tempo fa. No, non l'ho messa a posto, perché tanto non c'ho né stazionaria né nulla, sto uscendo bene, che non fa fare salire sul tetto, non la casata. Sono sempre con questi dolori al memore, non riesco manco a muovermi. Se sto facendo iniezioni, come faccio a salire sul tetto? Anche tu hai dolore al femore, senta. Vabbè, anche mio fratello ha quel dolore al femore. E infatti probabilmente si dovrà operare. La cartilagine che è consumata. Allora io bisogna di una di problema, ragazzi. Ma comunque, passerà anche quello. Cosa vuoi che ti dica? Oh Daniele, ma quell'antenna che ti vuoi dare, cos'ha? Un radialino è basta o ne ha tre? No, ha uno, è la vecchia. Capito? Perché poi ne sono andate diverse, di tante diverse marche, però la stazione è sempre la stessa. Però la mia è quella a uno. Quello ce l'ho anch'io, ma è direzionale. Come ha detto Gianni, è direzionale. Comunque si troverà un compromesso per farti sentire dappertutto, perché se lo senti bene tu magari potrei non sentirlo bene io o viceversa. Comunque ci sarà pure un compromesso, là intanto farà avanti e dietro, avanti e dietro, non di lato, né a destra né a sinistra, avanti e dietro rispetto all'antenna, rispetto all'antennino. Comunque è da provare, dai, è inutile dire cose adesso, intanto non si sa come rende. Va bene, dai. Si prova. Avanti Francesco. Ok. Va bene Giulio, allora quando credi mi passi la informazione, ok, va bene. Io intanto faccio un po' di QRX qua che mi devo allontanare dalla stazione, magari ci sentiamo più tardi, dai, se ci siete, se no alla prossima. Va bene, per me QRX, ascolto, buon proseguimento e ci sentiamo dopo, dai, ok. Va bene, buonasera Gianni WRUM, ben sentito, saluto un po' di aria. Raccomando, guarisci presto con questi dolori, sei giovane ancora. Quando avrai arretta mia, uia, vabbè comunque quelli sono dolori che diciamo che purtroppo sono rotture di scatole. Va bene, buon proseguimento, per me quelli che si ascoltano. Ehi, allora, vabbè, anche tipo di lavoro che io faccio, sforzi, sono tutti impegni, adesso non più, ma ne ho fatto per tanti anni. Pioveva, freddo, freddo, io ero sempre in giro, io ho segnato, quindi tutte le tempere me ne ho prese, in più gli sforzi che facevo, tutto qua. Io mi auguro che siano solo reumatismi da tempo, perché mi prende anche la lombare e tutta la notizia. Probabilmente anche da tempo. Va bene, grande, sto riprendendo io per salutare Francesco. Ciao Francesco, dopo ti chiamo, dai, perché Daniele mi aveva dato il messaggio, ma qui non è arrivato. Daniele, guarda che hai sbagliato il numero, mandami il messaggio, guarda che adesso te ne ho mandato uno io, per cui mandamelo su quel numero lì. Avanti Daniele. Gappa Rogero, ciao Francesco, ben ascoltato, dai, sei seduto in coincidenza alle prossime. Ok giù, adesso scendo e ti rimando di nuovo il messaggio, dai, riprendi Gianni. Eia, Nel frattempo ti ho mandato il video su Telegram. Dopo appena risali, Daniele, mi dici, allora l'Assirio fa due boomerang, fa il modello A e il modello W. Il modello A è quello lungo 3 metri e spiccioli, con lo stilo in alluminio. Il modello W dovrebbe essere quello con lo stile vetronesina ed è alta 2,10 m. Quindi ne fa due modelli. Adesso non mi ricordo quale sia il tuo, poi vabbè, appena rientri se ne hai voglia me lo dici. Ho fatto questa ricerca e l'Assirio ne fa questi due modelli qua. E niente. Quindi stavo leggendo un po' di caratteristiche, ha ragione sia Giulio che Gianni sul fatto che praticamente è leggermente, non è totalmente direzionale, è leggermente direzionale, per cui praticamente va messa a seconda della posizione ideale. E così la si sfrutta meglio. Sì, comunque confermo che ha una leggera direzionalità. Quindi Giulio, confermo una cosa. Dai, avanti Giulio. Ok, sì. Poi è un quarto d'onda, dunque. E sono antenne da un quarto d'onda, no? Non hanno una grande performance, comunque. È da provare, ripeto, è da provare. Sì, ma è così. Daniele, mandami il messaggio col numero che ti ho mandato io. Ti ho mandato io adesso su WhatsApp un messaggio, ti ho mandato. E intanto ti guardi la fotografia di quell'antenna da autocostruire. E poi su quel numero mandamelo, non nell'altro numero. Se hai sbagliato il numero, ne hai due, ne hai i numeri. E me li sbagli proprio di nuovo fino alla taverna. Va bene, dai. Avanti Gianni. Allora io pensavo che mi chiamavi proprio come tu Clark, perché se dovevi conoscerci dice a Gianni della stazione lo chiamiamo Gianni, no, io comunque ripeto, con la mamma avevo sempre problemi anche di rosso, è difficile portarla a 1,1 come a te, 1,4, 1,5, sempre così. Lo so, infatti non si riesce a passare, perché è una caratteristica della boomerang, è così, purtroppo è così, vabbè, comunque, tutto è da provare, dai, una volta che la prova saremo a vedere, le diremo se va bene o se va male, o se va meglio addirittura l'antenna che sta usando adesso della macchina. Se quella è incontabile magari, poi non lo dirà Gianni, se quella è incontabile, è nel frattempo. Ecco, adesso sono arrivati i messaggi. Riprendi Daniele. Riprendo io, forse ancora non è a portata di baracchino. Un conto è sentire pareri e consigli, un conto è sperimentare di persona. Quindi io ho sentito svariati pareri, però in questo momento se ho la possibilità voglio sperimentare proprio di persona, non perché io non creda ai pareri, ma proprio per esperienza personale, voglio vedere cosa succede piazzandola e i risultati che dà. Quindi tutto fa brodo, una volta che ho sperimentato a livello umano e personale la cosa, sono contento, allora posso dire effettivamente come stanno le cose. Sì, poi come in tutte le cose c'è gente che ne parla bene e gente che la critica, quindi voglio dire è abbastanza normale, tra virgolette, che succeda una cosa del genere. Vista la possibilità e visto che si può fare questa cortesia, lo faccio molto volentieri, quindi no, la cosa si può fare e vediamo un po' cosa succede, dai, sono sicuro che da me la boomerang funziona bene. Avanti W. E io te lo amo, non c'è problema. Io così ricchettionato sono sempre a livello personale. Provata, testata, ne ho fatto più di una, ne avrò fatto 4-5 boomerang, quindi se io ti ho detto queste cose è perché l'ho già avuta. È un'esperienza, sono fatto la prima esperienza. KK, avanti Daniele. K Rogero, aspetta che c'è mia moglie al telefono e dopo guardo guardo il video che hai mandato. Comunque Giulio, sono riuscito a mandarti quella roba lì, dai, così poi gliela giri, va bene, va bene. Gianni, riguardo l'antenna, la boomerang, io sto guardando anche nel catalogo della Midland. Se tu ti guardi nel catalogo della Midland che c'è online, la mia è la 6350 come codice. Ah, quindi è una Midland, non è una Sirio, confermi? Dovrebbe essere Sirio, Sigma, scusa, dovrebbe essere, perché ne hanno fatto talmente tante che non si capisce più nulla, capito? La mia è la versione dopo, la seconda versione dovrebbe essere, esagerando la terza, comunque dovrebbe essere della Sigma. Ok, quindi mi hai detto che l'hai vista nel sito della Midland, giusto? K Rogero, tu guarda nel sito della Midland, della 6350, ed è quel modello lì. E poi vabbè, questa è 300 centimetri, mezz'onda, e le caratteristiche sono sempre le stesse, capito? Perché poi c'è l'altra, la Mini, quella è un quarto, però è di polo, viene considerata. Sì, infatti quella della Sirio, praticamente la Sirio fa due modelli, il modello A e il modello W. Il modello A è quello più lungo, 3 metri e spiccioli. Il modello W è quello praticamente con lo stilo, credo, in vetroresina, alta 2 metri e 10, se non sbaglio. Quindi va bene, questa è la ricerca che ho fatto io. Adesso gli do un'occhiata comunque. Avanti Giulio. Sì, sono al telefono Gianni, riprendi tu. Sono al telefono. Cappa, ok, avanti Daniele. E dai, facciamo riprendere a doppio room che era in parcheggio. Riprendi Gianni Gay. Allora Daniele, che se ci riesco ti attenta, ma è cambiata. No Gianni, no, oggi mi ho finito di mettere in sicurezza, diciamo, il palo che gli ho soldato all'altra staffa, l'ho sollevato e sto collaudando questa, diciamo, questa assidio, e poi sto valutando un po' che cavolo di antenna metterci al posto di questa, perché c'ho il problema della mantovana, io ho capito, la scavalcare. E quindi non lo so, perché la Ringo, vabbè, è un'antenna senza radiali, quindi la metti nel palo, la attacchi e sta viaggiando e va da sola dritta su e scavalca la mantovana, diciamo. Se invece mentre ho una con le 5 ottavi che ci sono, anche qua le gemelle anche della mezza onda, come l'Energy, con questi radiali da metro bisogna avere poi com'è per farla scavalcare, capito? Perché va attaccato un palo da 2 metri, staffettarla al palo, inclinarla e sollevarla e poi rimettercela dentro il palo. E non è un'operazione tanto semplice, anche se si fa in due, capito? Lagrima, si mette. E per scavalcare la mantovana basta fare una staffa più lunga, che la sorpassi, le staffa più lunghe, se non è che la mantovana sia 40 litri, non so più quanto sia. 40 centimetri, 35 centimetri esattamente. Riprendi Cla. No, mi sto ascoltando, sto guardando la partita. Guarda Gianni, perché saturo? Perché ho il massimo della potenza con la pericchia, non me l'accorgo. Va bene, adesso ce la fai bene. Oh, Cla, hai letto il messaggio che ti ho mandato stasera? Sì, l'ho letto. Ripeto a te, se vuoi mettere la scheda, veramente, siamo la città senza. Cap, Rosa, adesso domani faccio un giro sui vari siti, vai, quanto vengono le spedizioni, più che altro, capito? Comunque, come ti sta arrivando adesso, Cla, alle tue parti, che ho sistemato il tutto? Cosa hai sistemato? Il palo l'ho sollevato tutto e messo l'altra staffetta dove doveva andare. Non noto differenze. Sei 9-10 eri prima e 9-10 sei adesso. Non hai cambiato niente, dai, va bene. Ok, è arrivato allora. Più di questo mi sa che non fa. Ah, lasciala così, già va bene. Proseguite, dai, riprendi il doppio room. Non è proprio che sto controllando una cosa, perché mi è arrivato il segnale basso. Dove c'è il Dai, riprendi Gianni. Ehi, sì, sto guardando il catalogo della Midland, vediamo un po'. Allora, sì, ci sono quasi, dai, sto vedendo, così almeno mi faccio un'idea più chiara. Senti un po', Daniele, è completa l'antenna? Cioè, nel senso, i due stilo con staff e vitine varie, è tutta completa? Sì, sì, sì, addirittura l'avevo data senza staff, l'ho presa da fusario, la staffetta. Era anche usata un periodo quella, da poco, prima, buonasera, prima che, come si dice, prima che la togliessi e mettessi questa, la Ringo, ho messo quella là, quella era troppo tappata per me, capito? Kappa. Allora, antenna balcone, stazione base boomerang, modello 6350, 6350, è quella lì, no? Giusto? E si conferma, questa mezza onda è... Mezz'onda con lo stilo tarabile. Kappa, sì, l'ho trovata. Sì, l'ho trovata. È lunga 3 metri, infatti è quella più lunga. Poi l'altra è invece la più corta, la mini boomerang, che è un quarto d'onda. Quindi quella lì era una mezz'onda. Bene, Mela. Dai, abbiamo scoperto qualcosa di più. Avanti, Giulio. Sì, scusa Giulio, prendo io un secondo e poi mi allontano 10 minuti che è arrivata gente a casa. Sì, in pratica è mezz'onda come sto usando io la Ringo, capito? Mezz'onda. Però all'epoca, quando l'ho avuta la prima boomerang, funzionava abbastanza bene. Ed era nel balcone, sempre lì tappata, che ancora non c'era l'altro pezzo della mansarda, diciamo. Va bene, riprendi Giulio, mi accento 10 minuti e ci ascoltiamo dopo. D'accordo, Davide, guarda che ti ho mandato anche due messaggi su WhatsApp a completamento di quello che ti avevo mandato prima. Va bene, dopo te li guardi. Vabbè, siamo rimasti io, Gianni e Doppio Room, e tu Gianni, avanti Gianni Doppio Room. Ehi, ha tutte le ragioni che mi senti più basso, c'è un banking game e qua c'è chiuso del momento. Non era il microfono, non era il microfono, ma la banking game, se dovessi sentirmi meglio. Sì, va bene Gianni, ma guarda che ti sentivo male, quando è che hai parlato anche? Ieri, o avanti ieri, quando è che hai parlato con loro? Ed eri sempre molto basso e nessuno ti ha detto niente. Cosa vuoi che ti dica? Vabbè, comunque io ero l'ascolto, non ero in frequenza, però stavi arrivando a basso, ma adesso è tutto a posto. Sì, sicuramente spolverà dagli apparecchi giù, che anche se a volte uso il benzina, sto attento, ma in certi punti uso anche lo straccio, quindi magari ho toccato qualcosa senza volerlo. Infatti succede, ma succede anche a me così, per cui lo sappiamo, io addirittura uso i tazzini, sai, dentro le fessure, eccetera, col pennellino entra dappertutto e uso quello, e magari lo sposto, il potenziometro o qualche tazzino e non me ne rendo conto, e dopo magari quando accendo, sì, però adesso mi ho preso l'abitudine che prima di parlare controllo sempre, a meno che non mi esce fuori di testa. Questo discorso, però adesso ho preso con l'abitudine, quando una volta che spolvero, prima quando accendo controllo prima di fare break. Avanti Gianni, dubbre fetta. Eia, abbiamo risolto anche l'arcano di doppio room, vabbè, su stili, con lo straccetto. Poi se ci sono un sacco di manopole, figurati tu, pure peggio, quando si spazzola. Quindi io per il momento non mi posso lamentare, i manopole ne ho solo 3, quindi il volume, lo squelce e il commutatore dei canali, quindi io praticamente sono a posto, sono forse quello meglio messo meglio di tutti, avanti giù. Ok, Claudio, passato il tema di testa, cosa sta facendo Napoli? Claudio, non risponde. Avanti, doppio room. Per rispondervi con quello che hai detto, io ho un apparecchio basso, sto parlando con quello adesso, che c'ha tanti potenziometri per tutte le cose, capito, quindi è possibile che qualcuno urti la spolverata, eccetera, non è successo nulla. Sono così rimaniamo, ti dici che ci siamo rimasti. Quello è un orario che è una bella modulazione, già. Quello è perfetto veramente. Quello tienitelo sempre, non lo dare mai. Perché quella è una bella modulazione. Avanti Gianni Lupa Fetta. Mi sono distratto un attimo, stavo guardando qua una cosa sul PC, ho scaricato il catalogo della Midland, adesso per leggermi le caratteristiche tecniche, perché io avevo scaricato la scheda tecnica, quella della Sirio, e questa è un'altra parrocchia. Vabbè, ma già si trovano le informazioni, quelle dettagliate giuste, anche soprattutto per fare l'accordatura, quindi già le buschiamo. Avanti doppio rum. Sì, ahi, vabbè, adesso già c'è internet, trovi tutto qua, tutto quello che vuoi lo trovi, non è come prima, no? Che per cercare una cosa dovevi prendere il piano, fare, guardare, cercare, chiedere a gente, eccetera. Adesso vai e te lo trovi da solo. Sì, abbiamo già trovato tutto, dai. Quello che ci serviva a sapere l'abbiamo saputo. Adesso ci tocca solo smanettare e basta. Bisogna buscare un paio di chiavi, una 2-10-11, una pinza, un paio di fascette, salire sul terrazzo, sul tetto terrazzo, dai. Scendere il tubo, levare la vecchia e mettere la nuova e attaccare il PL, e siamo andati. Avanti giù. E sei già in aria. è così che succede, certo. Dico una cosa, Gianni Lubrefetta, tu che eri lì alla televisione, sicuramente l'hai conosciuto. Quel cameraman, mi sembra che fosse il cameraman allora, che lavorava per Sardegna 1, anche ha lavorato, che abita di Punti. Come si chiama, che non me lo ricordo più, tu lo sai? Ma stai dicendo Walter per caso? Walter, sì, bravo, sì, non me lo ricordavo, sì, Walter, no, perché tempo fa si era sentito frequenza, ma per un mesetto, infatti ci siamo conosciuti di persona, sono andato anche a casa sua, so dove abita, qui al Punti, nella mia zona, no? Cioè nella mia zona, un po' dall'altra parte, però diciamo che ci siamo conosciuti, ho conosciuto anche la moglie, eccetera. Aveva deciso di che entrava in frequenza, poi si erano comprato un baracchetto, si erano comprato un uomo, ma non l'ha mandato, cosa vuol dire? Evidentemente, infatti aveva chiesto anche un toroide, perché voleva costruirsi l'antenna, voleva costruirsi. E questo toroide gliel'avevo fatto arrivare e gliel'avevo consegnato, gliel'avevo. Però poi non l'ho più sentito. Più. Vabbè, comunque, Walter sì. Walter CB, sì. Infatti me l'avevo segnato così, Walter CB, come nella rubrica. Però adesso in questo telefono non ce l'ho. Ma da qualche parte il numero ce l'ho. In qualche rubrica di carta ce l'ho il suo telefono. Va bene. Avanti Gianni, doppio numero. Vabbè, riprendi tu Gianni, altro. Già ho capito, sì. In verticale siamo da un sacco di tempo che non ci vediamo. Sì, vabbè, lui lavorava per un'altra parrocchia all'epoca. Poi, vabbè, ha cambiato un po' di... Insomma, è passato da un'emittente all'altra. Adesso sono da diversi anni che non lo vedo, non so se stia ancora lavorando nell'ambito televisivo. Sì, comunque, siccome ha origini insomma campidanesi, dalla parte di Cagliari, so che tanti anni fa giù dalle sue parti modulava, quindi era CB da, insomma, CB da quelle parti. Poi non so se a Sassari si abbia portato qualche apparato. No, vabbè, è una persona molto precisa, poi ha molte competenze a livello elettronico, è molto informato, insomma, è una persona che sia che a livello pratico, ma anche a livello teorico è molto, molto preparato, quindi cioè, è uno che quando parte a spiegarti le cose proprio non secca mai, cioè proprio parte e non lo fermi più. Quindi sì, sì, mi ricordo che aveva questo tipo di attitudine, cioè lo vedevi sempre a sperimentare, su qualsiasi cosa ti dava le informazioni giuste, è sempre stato così. E niente, quindi adesso è da parecchio che non ci vediamo. E quindi sarei curioso magari di sentirlo in frequenza. Avanti giù. Ok Gianni, sì, senti. Sì, no, ma quello sì, l'avevo capito, era una persona abbastanza competente, uno che sa fare, dai. L'avevo capito benissimo. Infatti l'avevo fatto conoscere anche a Luca Manicomio, l'avevo fatto conoscere. Adesso non mi ricordo cos'è che gli aveva dato, qualcosa aveva dato a Luca, adesso non mi ricordo, ma una sera, una domenica mi sembra che eravamo, ci siamo incontrati e poi l'ho accompagnato lì da Luca e gli aveva portato un qualcosa che non mi ricordo cosa fosse. Comunque, sì, lui ci aveva piazzato uno o il dipolo o in orizzontale, ci aveva piazzato nel terrazzino a casa sua. Ed è per quello che l'avevo sentito e scoperto, ma qualcuno anche nella zona latte dolce a casa già lo sentiva ugualmente. E aveva deciso di farci l'antenna, di costruirsela. Infatti l'avevo chiesto se io avevo qualche dolore, gli ho fatto no, guarda, proprio si è arrivato proprio nel momento propizio, perché io di dolore ne devo ordinare un paio e li avevo ordinati, infatti, perché anch'io devo fare un balon, devo fare, e li avevo anche fatto il balon, e poi l'ho conservato, non mi ricordo, non riesco più a trovarlo, però dolore di addirittura ne ho tre in tutto io, se ti puoi immaginare, il T200, quello rosso. Uno l'avevo fatto arrivare anche per lui, l'avevo fatto arrivare e me l'avevo consegnato e ciccia. Poi non so che cosa ha deciso, a meno che non ci sia più a Sassari, è andato a lavorare verso Cagliari, visto considerato che lui è la parte del capitano, sarà per quello allora, non lo so. Va bene, dai. Vediamo un po' se è rientrato Gianni Doppio Lucci. Sì, Gianni? Sì, ci sono. Mi sono liberato, sono ritornato. probabilmente, ma io non ho mai sentito questo qui, non sarà entrato molte volte, vero? No, ti ho fatto sentire un po' di volte già. Sì, ma anche tu l'avrai sentito sicuramente, perché arrivava lì, dalle tue parti arrivava. L'avevo messo un pezzo di filo lì, sul terrazzino, addirittura molto, molto basso anche tra l'altro, proprio per farti sentire. Io te lo sentivo molto bene, perché tenendo ora qua problemi di ascoltarlo non ce n'erano, però ho visto che anche gli altri lo sentivano e rispondevano, per cui lui anche ci ha parlato anche con quelle del latte dolce, soprattutto. Ma mi ricordo forse anche con te ha parlato, adesso io non me lo ricordo più. Ma io sto parlando addirittura di due anni fa minimo, se non anche di più, questa storia. Per cui, vabbè, comunque, capiterà l'occasione del visitivo, se si fa sentire, oppure se lo incontro qua, nella zona, ve lo chiederò. Avanti, subprefetta. Sì, sì. Guarda, ti ripeto, sono da un po' che non lo vedo. Sapevo che era ancora a Sassari insomma, per vie traverse, credo, per le informazioni che ho io, magari nel frattempo sono cambiate, credo che stesse lavorando all'inizio con Canale 12, questo è quello che so, poi non so se ci sta lavorando ancora, però sapevo che stava lavorando a Canale 12. Questo è quanto. Poi in frequenza non mi è ancora capitato di sentirlo e niente, insomma, già mi farebbe piacere, visto che siamo un po' di tempo e non ci vediamo. Avanti, doppio rum. Io già, ma canale 12 che cos'è praticamente? Lex Antenna 1? No, no, è una nuova emittente. Diciamo che ha acquistato, ha comprato le frequenze. Ha comprato le frequenze di Antenna 1. Antenna 1 quando ha chiuso praticamente ha sparaccato sia fisicamente della strumentazione e poi ha venduto le frequenze che sono cestite, sono registrate e censite al Ministero delle Telecomunicazioni. Canale 12 ha comprato, ha acquistato le frequenze di Antenna 1. Ah, ecco. Antenna 1 l'ho guardato spesso, mi piaceva anche a Spina, mi guardava, faceva cantare la risata. Ma veramente io capisco come ha fatto a fallire. Insomma, guarda, io lavoravo alla traparrucchia, io lavoravo a Tele G, la concorrenza. Infatti, guarda, c'è un sacco di ricordi, se ne mogano racconta guai. No, vabbè, già ci siamo divertiti, dai. Era, ti parlo degli anni 90, quando c'era anche Super TV, che la, l'ex telettere, mi. Cioè, quindi quando c'erano tre televisioni a Sassari, c'era Super TV, Antenna 1 e Tele G. Quello è stato un bel momento perché insomma c'era bella concorrenza, bella, insomma, bella accesa e niente, quelli sono stati, a livello professionale sono stati, dai, sono stati dei momenti interessanti. Io ho chiuso il mio rapporto con la televisione nel 2010. Ho chiuso con la TV, ci ho lavorato 18 anni quasi a Tele G e dopo nel 2010 per, insomma, per tutta una serie di circostanze ho dovuto smettere e quindi niente, adesso sono passati, cazzo, pare così, sono passati quasi, cioè, c'è tutto 9 anni e niente, quindi sono fuori adesso, dai, da un bel po'. Ecco, poi vabbè, mi dispiace. Cosa facevi in camera? Facevo tutto, ma non perché te lo dico io. Facevo tutto. Facevo di tutto. Un po' di competenza elettronica, quindi facevo anche la manutenzione, insomma, facevo tutto, guarda. Poi se conosci qualcuno dell'ambiente magari ti potrà confermare quello che dico. No, quasi di tutto, praticamente davo la voce agli spot pubblicitari, facevo le riprese per il TG, il TG lo confezionavo io praticamente. Quando tu vedevi il telegiornale in onda l'avevo fatto io, nel 95% dei casi, quindi molte volte mi capitava di fare le immagini e poi soprattutto di fare anche il telegiornale dopo, quindi ero abbastanza impegnato, dai. Ah, poi, c'è una cosa che piace, interessante, quando la mano piace poi si fa più volentieri. Vabbè, poi chiaramente sono cambiate un po' di cose, insomma, come tutte le grandi famiglie di questo tipo, insomma, chi arriva magari arriva gente che non ha delle bellissime intenzioni, quindi sai, poi l'equilibrio si scardina e quindi insomma tutta una serie di cose, non stiamo qua a parlarne, perché però è stata una bella esperienza e quindi visto che io tra virgolette la televisione la facevo davvero, quando guardo la TV riesco anche a guardarla con un occhio critico e so cosa c'è dietro, capito? Quindi è uno strumento che ha delle potenzialità enormi. Questo è da uno che ci ha lavorato, quindi ti posso dire che purtroppo è usato male, secondo me. Comunque, questa è la mia opinione personale. Avanti Giulio. Ok, Gianni, beh, certo, sicuramente qualche cosa che non è a posto, veramente c'è sempre. Dimmi una cosa, ma allora hai conosciuto anche Carlo Valle? tutta quella gente che faceva le commedie, Mario Olivieri, questi li hai conosciuti? Sì, sì, un Canofare lo conosco. Ho avuto modo anche di lavorare con Olivieri, faceva una trasmissione con Orlando Angius a TeleG, si chiamava La Cimbrana, non so se te la ricordi. Molti degli sketch che giravano fuori in esterni li giravo io, quindi certo che mi ricordo. Ne è passata gente a TeleG, ne è passata tantissima, è passata molta gente. Non solo loro, ma tantissime altre. Sì, certo, ma sicuramente. Sì, ma io li conosco tutti, quindi, sempre quello. Carlo Valle abitavamo di fronte, prima, dove abitavo prima io, sempre qui alle punti. Suppongo che abiti ancora lui lì, non lo so, penso di sì. Una sagoma quello lì, però è una bravissima persona, veramente. Poi parliamo di Orlando Angius, che poi in realtà gli amici lo chiamano Rudy, lo chiamano, perché lui da giovane, io lo conosco da ragazzo, proprio ragazzo, si faceva chiamare Rudy, si faceva chiamare, non Orlando, il suo vero nome è Orlando, però si faceva chiamare Rudy. Non capisco per quale motivo, perché era fissato forse col canto o qualcosa del genere, insomma con qualcosa che fa parte allo spettacolo, e allora si faceva chiamare Rudy Montanaro di nascita, si può dire, anzi è senz'altro Montanaro di nascita, perché abitava lì a monte su in alto e abita ancora, credo. No, l'ultima volta che l'ho visto l'ho trovato lì a Pasqua, l'ho trovato, ma aveva detto che aveva rotto il rapporto con Mario Olivieri e dunque non si faceva più televisione insieme a lui. Va bene. Mi ricordo quando era andata quel programma che c'era all'ora di pranzo, la televisione, come si chiama, su Canale 5, che era andato lui e Mario Olivieri, era andato. Avevano fatto finta di bificciare, ma cosa me ne frega, cioè, mi hanno dato 1500 euro a me e 1500 a Mario e abbiamo fatto la trasmissione il giorno. Vabbè, vai Gianni, io più giù. Vabbè, anche mia figlia ha lavorato lì a TeleG, però come cantante c'era questo certo Danilo che organizzava. Ah no, io ero già andato via, lui è subentrato dopo, quindi non ti posso raccontare niente, io sono andato via nel 2010, e niente, sì, riguardo quella cosa lì giù, era Forum, sì, già mi ricordo, che erano andati... sì, a Canale 5 per... sì, vabbè, quelli che partecipano al Forum sono delle comparse, non sono le persone vere che hanno i contenziosi, sono solamente comparse. Mi ricordo questa cosa, sì. Sì, poi cosa sia successo nel frattempo a livello artistico con loro non nessuna conoscenza. Sì, conoscevo il Lumigno, infatti quando lavoravano venivano a fare la trasmissione da TeleG, Mario lo chiamava con quel soprannome, lo chiamava Rudy, sì, mi ricordo. E ne è passata di acqua sotto i ponti, in televisione. Non so se vi ricordate il programma Sunedi e Cantelli, il programma della musica folk sassarese, lì abbiamo praticamente a Sassari abbiamo raggiunto il top, proprio eravamo la televisione perseguita a Sassari. Sì, certo. Sì, ma li ho seguiti tutti io quei programmi, quando si tratta di musica sassarese, a me piace, la verità, devo dire, magari ci sono tantissimi detto, ma purtroppo cosa vuoi fare? Musica statalese, io per musica intendo la musica vera, come si deve, perché poi i veri bravi sono in pochi, non è che ce ne sono tanti. Ci sono tante sonate casomai, tante persone che non sanno cantare, tanto per fare un nome a caso. Sanna, non mi piace, è sonato, quello lì, beh, scritto un sacco di canzoni, anche mia nipote, a quello lì, ma è cantante come si deve, è Gian Maria Santoni, è Gianni Paoleso, Giovanni Lo Giorno, Buonanima, anche Giuseppe Piluso, Discreto, e tanti altri, tutti quelli, sì, ma sono certi, per carità, che buoni ambienti, che io sinceramente parlando dico che stanno rovinando l'immagine di Radio Venere, che la mattina, la domenica mattina trasmettono quel programma in statalese, ma per non parlare poi del presentatore, dice, oh mamma mia che porcheria, era molto meglio quando era Radio Satari con il presentatore, ma molto meglio, non poco, questo è proprio analfabeta addirittura, ma carità, io sinceramente parlando, sarei stato io il padrone di Radio Venere, non l'avrei accettata una trasmissione condotta in quella maniera così. Vabbè, dai, fai Gianni doppio numero. Che la conduce questa trasmissione, non per essere corso, perché prima la faceva il padrone di Radio Venere, appunto, quello che faceva il comunista, cioè hai capito chi era. No, non era padrone, era un dipendente di Radio Venere, o un sucio, o qualcosa del genere, era un'altra cosa, ma almeno quello se non altro parlava un po' italiano, ma questo è proprio terra a terra, lì. Questo qui è uno di cantiere, Gianni, senza offendere quelli che lavorano in cantiere, per carità, perché ci sono persone che sanno parlare veramente anche fra i muratori, eccetera, lì c'è proprio terra a terra, una specie di gabbiaccio, per carità, vabbè, questo qui. Avanti Gianni, lo prefetta. Ora, questo non è il padrone. Io sapevo di sì. No, non era il padrone. Che Radio Verdi, Stasera di Radio, non era il padrone lui. Non era il padrone, Paolo Giua, non era il padrone. Adesso non so se era socio o se era un dipendente. Il padrone era un altro. E poi, non so cosa è successo, si è venduto la radio e Paolo Giua è andato via. Tutto lì. Avanti, prefetta. Ehi, poc'anzi, qualcuno ti ha parlato sopra, non so se ti ha parlato il Gerrumo, comunque non ho capito niente. Adesso, vabbè, voi state parlando di due radio diverse, state parlando di Sassari Radio e di Radio Venere, giusto? Radio Venere, se state parlando di Radio Venere, il programma dove si metteva anche musica sassarese lo faceva Maurizio. C'è un'ambulanza. Allora, il programma lo faceva Maurizio e praticamente era il titolare, era il proprietario di Radio Venere, adesso che è scomparso qualche anno fa. Io ho avuto la possibilità di lavorarci 5-6 anni in Radio Venere, quindi posso confermare che Maurizio era il proprietario, il titolare di Radio Venere. Vabbè, io conoscevo anche Lorena e Tiziana, ci sono insieme, non lo so. No, prego, registrato, prego. No, ma io stavo parlando del conduttore di oggi. Sì, lo so che Maurizio era bravo, ragazzi, da lui già sapeva presentare, o Gianni. Quando sì, ma quello che presenta oggi il programma sassarese, lui pecca e sacca, meglio niente, io ripeto, non so chi si gestisce oggi e Radio Venere, però essendo io un proprietario, o gestore, o direttore, che non lo so come sono messi lì, io non avrei accettato un presentatore presentatore così, se il presentatore lo vogliamo chiamare, no, non è possibile, non è possibile assolutamente. C'è stato un break avanti. Buonasera, ciao Giulio, ciao anche a Gianni e all'altro Gianni di Sassa, un altro più Walker. E niente, volevo sapere come stava uscendo questa Giulio. Bene, bene, bene, bene, va. Tanto ti saluto, va benissimo. Sentiamo cosa dicono gli altri, dai. Vai già di Sassa, di del monte. Sì, ciao, ciao, ho proprio sentito, va. Sì, è un leggero eco, va bene, va. C'è stato tanti anni, penso che è conosciuta a Steffi, quella che all'entrata metteva sempre la musica IMC. Buonasera Franco, ben sentito, qua sei Santiago 5 Radio 4, comunque, ben sentito, ben entrato. Guarda, io ti parlo di... parlo degli anni 85-86 sino ai primi anni 90, quindi ho avuto modo di conoscere alcuni personaggi, alcuni speaker, chiaramente non li ho conosciuti tutti e non potevo, cioè, non conosco chiaramente quelli che sono venuti dopo. Sì, Tiziana, ho conosciuto Tiziana, la moglie di Maurizio, è scomparsa anche lei, buon'anima. E niente, insomma, è stata una bellissima esperienza, era una di quelle cose che da piccolo sognavo di fare e poi alla fine ci sono riuscito. E niente, insomma, lo posso, anche quella la posso, le posso onorare tra le mie esperienze più belle. Ok, avanti Fra. Capo, non ho capito di cosa stavate parlando. Ok, un attimino, faccio rilancio a Giulio che mi sto chiudendo il microfono. Ci sentiamo fra un minuto, dai. Avanti Giulio. Ok, Fra, d'accordo. Stavamo parlando delle televisioni di Sassari, di alcune televisioni e alcune radio di Sassari. No, qua non c'è dubbio, Gianni Lubrefetta, che Maurizio era bravo veramente, no? Quello sì, lui l'ha creata praticamente, il Radio Venere l'ha creata lui, e l'ha portata avanti e ancora esiste già da 40 anni, non è da ieri, no? Però io sto parlando, sia ben chiaro, io sto parlando solo esclusivamente di quello che presenta il programma Sassarese, non sto parlando della radio in generale. La radio in generale è un'ottima radio, ci mancherebbe, fa benissimo, è una fra le migliori a Sassari, e forse anche se ne frega anche di qualcuna del continente, di fuori. Però chi presenta il programma Sassarese a me non piace assolutamente niente, ma proprio niente di niente, perché non sa parlare. Poi predilige sempre quello che gli interessa a lui. No, si fa così, il programma si fa girare, gli artisti li devi far sentire tutti, è inutile che tu ti metti in mano a chi ti chiede la canzone, che poi quelli ti chiedono una porcheria e tu la mandi in onda. La radio la stai gestendo tu e devi gestirla come si deve, non in maniera così schifosa, perché non è possibile trasmettere certe canzoni che, per carità, è meglio niente, proprio ti dà proprio lo stimolo per spegnere la radio, non per ascoltarla. È quello che intendevo dire, Gianni Lubrefetta. Va bene, vai Gianni, lo tiro. Io c'ero un periodo che ascoltavo Sassari Radio, le canzoni sassarese, poi sono passata anche quella, non si è più sentita, e lì ci modulava anche, c'era come speaker, non so se te lo ricordo. Dice, io parlando sempre di corso, di programma sassarese, la domenica lì, Sassari Radio, lo faceva Paolo Giua, ma Paolo Giua già sapeva parlare, tanto più che Paolo Giua anche mi sembra quando lavoravo prima di presentare la radio, mi sembra che fosse un impiegato del via Roma, come si chiama? Quello deve essere case, là, non mi ricordo come si chiama. Comunque, a parte quello, Paola poi, il padrone vero, non era Paolo Giua. Paolo Giua era semplicemente un dipendente, o al limite un socio o qualche assicurazione avrà avuto anche lui. Se l'ha venduta al padrone e Paolo Giua naturalmente è dovuto andare via, perché chi è subentrato aveva altre idee, altre intenzioni ha avuto. Ecco, anche perché poi non trasmetteva più il programma della rete. Ecco com'è. Va bene, dai. Avanti Gianni, in perfetta. Eia. Sì, sì, confermo che per quello che ne so, Paolo Giù era un collaboratore. Per un breve periodo di tempo ha fatto anche qualcosa a TG, mi ricordo, un po' di anni fa. Quindi posso confermare quello. E niente, sì, poi vabbè, adesso io la radio non l'ascolto da tanto, quindi non ti so dire il livello di qualità di chi, insomma, di chi ci sta trasmettendo adesso, quindi non posso dare un giudizio, non, cioè, sinceramente non mi interessa, con tutto il dovuto rispetto, quindi non so a che livelli siamo. Niente, poi vabbè, diciamo che in quel panorama lì ho avuto anche la possibilità di conoscere anche altra gente di altre radio, insomma, sto parlando sempre di quegli anni, quindi niente, già era un bel ambiente allora. Poi chiaramente sono entrati i grossi network nazionali e praticamente hanno arruinato tutto. Quindi comunque dai, personalmente è stata un'esperienza molto molto interessante, e l'ho fatta proprio nel momento più particolare, prima del passaggio dei grandi network. Sì, ho dei bellissimi ricordi della radio e quindi ogni tanto ci ripenso. Avanti, Obiorù. Sono cose belle che ho vissuto, sono dei buoni momenti. Io adesso con il radio che ascolto sono Radio 105, Mameo per lo più, RDS, specialmente in maggio. Vabbè, ormai Radio 105 l'ha assorbita media, senti, per cui ormai è tutto Berlusconi. sì, già, beh, certo, Radio 105 era una bella radio. Quando parlano pulito, poi se fanno quelle trasmissioni che tempo fa facevano, tutta piena di parolacce, anche loro facevano schifo allora, in quel caso lì. Però adesso è di Berlusconi e suppongo che, siccome io non l'ho più ascoltata, suppongo che già sia una radio seria, sia diventata una radio seria. Va bene, ma è così. Gianni, ti ricordi come si chiamava Slimer di nome? Ti ricordi? Anche lui presentava Radio Giovane. Ti ricordi Slimer? Come si chiamava di nome? Non me lo ricordo più. Com'era Gianni Davis, Slimer? Com'era Gianni Davis? Sì, Gianni Davis, sì. E Gianni Davis è conosciuto da Gianni Lubrafetta? Un paio di volte. Un paio di volte, sì, mi ricordo che avevamo fatto qualche intervista, adesso mi sfugge esattamente, non posso essere più preciso, non, ho dei ricordi molto, molto sfocati. Comunque sì, mi ricordo che era stato intervistato in televisione, la TG all'epoca, però in questo momento non riesco a dirti altro. Sì, vabbè, poi ti ripeto, ho avuto modo anche di conoscere anche tanti altri, quindi sì, diciamo che c'era parecchio movimento allora, e quindi giravano un sacco di persone. Sì, poi vabbè, ho conosciuto qualche vecchio speaker di Radio Giovane, ho conosciuto per un piccolo, brevissimo periodo, ho fatto qualcosa a Radio Holiday quando era in via Grassa dell'Edda, ma ti parlo lo stesso di un sacco di anni fa, insieme ad un amico facevamo una trasmissione il pomeriggio dalle 4 alle 5 e mezza, e anche lì mi sono divertito, io provavo a fare le imitazioni, imitavo le voci insomma di gente famosa, almeno ci provavo, dai, c'erano le telefonate in diretta, già mi sono divertito, dai. Quindi ho sperimentato un po' di cose, avanti giù. Ok, sì, mi ricordo quando c'era la radio Unghie di Via Grazia dell'Edda, una volta stavo scendendo in Via Grazia dell'Edda con la macchina, allora si poteva anche scendere, e avevo l'impianto dell'autoradio lì, ed era spento, e non ti sentivo Radio Unghie nelle casse, con la radio spento. Mamma mia quante spurie che mandava quella radio lì, sicuramente, lui. Infatti si lamentavano in tanti in quella zona, perché disturbava tremendamente i televisori, eccetera. Va bene, là. Avanti, doppio ru. No, io Radio Holiday me la ricordo quando era la zona di Pulizzetta, quella zona lì, via degli Astronauti, quella zona lì. E avevo vinto anche, praticamente facevo un programma che dovevo indovinare le parole sassarese. C'era mia madre che me le traduceva, io telefonavo, tutto qui in parte. Ha vinto un altro lavaggio per la sua macchina, però ti dovevi presentare lì e praticamente parlare, eccetera, eccetera, al microfono, capito? E una volta ho vinto una torta, una volta ho vinto un altro lavaggio, dice, questo signore ogni settimana vince un premio, adesso lasciamo vincere anche un po' gli altri. Sì, e allora si facevano queste trasmissioni così, oppure c'erano quelle della notte, c'erano su Radio Holiday allora in quegli anni lì, insomma, facevano compagnia, ma c'era gente indiscreta che sapeva anche dialogare, perché ricevevano le telefonate, era la gente che ascoltava e si parlava del più e del meno. E dunque era anche interessante, la notte soprattutto sembrava più piacevole, perché tanta gente magari che andava a dormire tardi si piazzava, oppure addirittura a letto si piazzava la radiolina e ascoltava e col telefono poi parlava con la radio stessa, perché le mandavano in diretta anche le telefonate, certo, e così. Va bene, avanti l'ubrefetta. Le telefonate dirette erano molto pericolose, infatti molta gente non dava il nome vero, praticamente quando io mi ricordo che quando sono con Valerio qualche trasmissione la facevamo insieme a due voci, e niente, la mattina prima di mandare le telefonate in diretta, chiaramente cercavamo di tutelarci, insomma, vedevamo un attimino chi era al telefono, insomma, cercavamo di capire più o meno se era una persona tranquilla o meno. Quindi niente, si facevano i vari controlli e tutto qua, però già ne sono capitate, dai, ricattate, quindi ne sono successe. Poi molte volte capitava che io andavo nell'altra stanza e con l'altra linea facessi il disturbatore, no? Facessi l'inviato da non so cosa, mi mettevo a inventarmi voci, insomma, no, è stato divertente, dai. È stato divertente. Avanti, o più rum. Io mi ricordo il salotto di Radio Holiday, o Giulio, telefonava sempre questo certo Gambinuccio il maestro, l'hai mai sentito? Sì, che l'ho sentito, lei ha voglia. Oppure un certo Mario, mamma mia, quando cominciavano a parlare si dovevano impuntare gli speaker, per fargli smettere, non finivano mai, per carità. Beh certo, purtroppo era così, il vizio c'era, però diciamo che lì nel massimo poi si conoscevano dalla voce certe persone e allora davano adito a quelli che erano conosciuti o già nello prefetta, per cui la trasmissione si lava liscia anche, dai. Certo, si sa, c'è sempre il deficiente che parla male, magari dice cretinate e allora sporca un po' la trasmissione, però tutto sommato voi avevate il sistema e il modo come far andare avanti la trasmissione pulita senza che nessuno interferisse con certi argomenti scabrosi, eccetera. Va bene, avanti Gianni, non prefetto. Sì, avevamo praticamente un apparecchio che serviva per adattare la linea telefonica al mixer, un traslatore telefonico, ed era un apparecchio professionale, praticamente con tutte le varie regolazioni, e tramite quello ci mettevamo praticamente in preascolto, in cuffia, sollevando un tastino potevamo sentire la chiamata in arrivo, la mettevamo in stand by e poi praticamente quando dovevamo farla passare in diretta schiacciavamo praticamente un pulsante e la mettevamo in onda. Sì, chiaramente le telefonate le filtravamo e avevamo possibilità di ascoltarle bene prima, capito? Quindi c'era tutta avevamo i mezzi giusti e necessari per poterlo fare, anche perché poi insomma non era semplice passare l'audio del telefono in diretta radio. Quindi niente, dai. C'era il tanto che basta. Poi mi ricordo che a livello tecnico su a Radio Fene, a livello di strumentazione erano sempre i numeri uno. Mi ricordo quando Maurizio aveva portato il mixer grande della FBT, praticamente era un prototipo che non era ancora entrato in commercio, aveva praticamente una sorta, è una delle prime regie automatiche con dei tastini a fianco, che se per caso ti si rompeva qualche cursore praticamente accendevi questa piccola regia automatica e con dei tastini riuscivi in caso di emergenza a continuare la trasmissione. E lui ne andava molto orgoglioso. Certo, quando l'ho visto arrivare con quello scatolone, giusto, cioè, poi aveva quel suo tipico accento abruzzese mischiato a sassarese, mi faceva pisciare da ridere. Una persona d'oro, veramente. Ho avuto la possibilità, la fortuna di conoscerlo, uno spasso. Ecchi me! Avanti Daniele! K, sono rientrato, dai, ancora per poco, ancora non è pronto, che è venuta, ha avuto visite e mi sono dovuto assentare. Daniele, hai visto gli altri messaggi che ti ho mandato a completamento di quello che ti avevo mandato prima? Allargati l'immagine, guardateli bene e leggi anche quello che c'è scritto, insomma, già è interessante sapere anche quello. Ed è molto molto informativo il discorso, ok? Sì Giulio, ho avuto modo di dare un'occhiata al volo volando, dopo stanotte me lo guardo con calma e poi riesco, sto avendo la tentazione di fare anche quello, mi sta avvenendo, già mi attrezzo, queste sono state belle giornate, provo a fare anche questa prova qua, va bene. Ok, allora se hai intenzione di farcela, vai la decca, tu che comprare già di subito la canna da decca, vai in fondo, proprio in fondo, e giri a destra, quando sei arrivato in fondo al negozio, quando entri di fronte, già dall'ingresso si vedono le canne da decca. Vai in fondo, proprio in fondo, alla fine del negozio, andando sempre dritto, e giri a destra, in quella corsia a destra, e lì ci sono le canne da pesca da 7 metri, guarda che sono sigillate, sigillata, nel senso che ci sono due tappi, ce n'è uno da parte o all'altra, uno è a vite e uno è un cazzo di gomma. C'è scritto anche il cartello, leggo il cartello, 7 metri, 15,90 euro, una cosa del genere costa, per cui no, te lo dico, sia che poi magari no, non è più, perché ho visto che ci sono da 6 metri, sì, ma da 7 metri ce n'erano 2 o 3, e gli altri più lunghi da 8 metri non ce n'erano, per cui puoi prendere quella. Va benissimo. Capa Rogero, e si conferma Giulio, basta vedere le tue prestazioni, diciamo, come stai arrivando. Va bene, dai, riprendi Gianni oppure fai girare per chi è rimasto, dai, che io sono, non ho fatto neanche ascolto. Dai, con mia radio stai uscendo. Uè, Gianni Gedu, dimmi tutto. No, ma che bella la voce, non potrebbe essere quella presente. Questo è un 48 Gianni, è un 48 col microfono sempre Midland, ma non l'originale del 48, è quello microfono nero, che c'è l'altro 48 modificato che adesso è dal dottore. Ah, no, io già ce l'ho ancora il 48 modificato, ce l'ho e gira anche bene, era uno di quelli di Gigi Vulcano. Ehi, no, il mio purtroppo ha avuto una specie di blackout nelle modifiche. Adesso è riuscito a farlo ripartire, dice funziona tutto, però mi manca la scheda del Roger Beep. Adesso domani chiamo in continente, faccio una chiamata e vediamo, non quanto ne vuole per la scheda, perché le trovi a, con 10 euro te ne esci, 10-15 euro, le spese di spedizione, quelle che fanno lievitare. E vabbè, già non sarà tanto, vai. Sarà 10 euro, penso, 10-15 euro al massimo. Lo so, infatti è quello che voglio evitare. Spendere il doppio, e più in spesa di spedizione che per il pezzo. Se no rimane senza bip e già funziona lo stesso. E come fa? Ma magari qualcuno ce l'ha, qualche scheda del bip. C'è qualcuno qua in Sardegna che ce li ha. Chiedi a Gigi, magari se ancora nel giro te lo dice chi ce l'ha. L'ho già chiesto, ho sentito ieri a Gigi, poi l'ho scritto anche in quel gruppo di Facebook, Gigi non ne ha, il gruppo di Facebook non lo so, perché l'ho scritto poco fa, ancora sto aspettando notizie, domani mattina una trinza e faccio un giro di chiamate, e vediamo cosa ne esce fuori, se no ripeto, rimane così, già parla. Si sente e funziona. E infatti, è anche quello senza eco. Cappa. Infatti le ho detto, se non funziona niente, lo fai normale, ciccia. Aspetta che c'è Eugenio che sta chiamando. Eugenio, tu sì. Avanti chi chiama Gianni. Eugenio, se sei tu ti sento pio, non so dove tu sia, però ti ascolto ma pio. Non so se ti ascolti, però io ti ascolto molto basso. Avanti Giulio, ascolti Giulio. Ti sento un po' meglio, ma senti anche uno. Oh, non lo sento, io non lo sento Eugenio. È a posto Eugenio, sicuramente è a posto. Quando Eugenio, dai, quando ti trovi in un punto dove ti sentiamo meglio, chiama, dai, perché ti sento a livello di guerra. KK, no, qua non sta proprio arrivando, di nuovo lo smitter, ma un pelo e non c'ha né radio e a pelo di segnale proprio, ma zero proprio. È in giro da qualche parte, magari in zona negativa e non riusciamo a sentirlo. Va bene, dai, riprendi Luprofè. Sono rientrato. No, io qua ho sentito un po' di borbottio, ma in passato in mezzo a QRM, quindi sicuramente al porto lì in movimento, non sono riuscito proprio, non l'ho sentito proprio per niente. Ok, dai, avanti Giulio. Un attimo di bianca che sta chiamando. Ehi, adesso ti sentiamo, dai. Eccoci Santiago 3, la radio però già va bene, dai, ci sentiamo di là. Cosa siete? Rientro a casa? Bisogna produrre. Anche io non sono messo bene, non è che mi abbia molta famiglia, però devo purtroppo lavorare, c'è quando vado in pensione. Almeno, sto cercando la gioco, ci metto in rapido. Ciao, ciao, ci sentiamo oggi, buona serata, da parte di Giulio. Ok, ciao oggi, ciao. Va bene, vai a casa e fatti sentire bene, in grazia di Dio. Perché adesso stasera ti ho sentito proprio poco, adesso va bene, questi ultimi passaggi che hai fatto già ti sentivo. Però inizialmente proprio te l'avevo detto, sotto il sottoscala. Vabbè, ma Franco è di sorso, è rientrato, Franco ci sei? Stavo scacciavitando con il microfono. Ma già è lunga l'abitatura di questo microfono. Vabbè dai, riprendi un bel pezzo. Sta facendo l'avvolgimento del microfono, sta facendo la bobina a mano, sta girando il filo di rame isolato, quindi sta contando le spire e quindi ci sta mettendo un po' per quello. Già sono sicuro che appena finisce già ci dà un colpo di microfono. Infatti anche lui di ripristino di baracchini vari. A proposito dei baracchini, mi ricordo il baracchino che avevo io, era un irradio 23 canali con il commutatore rotondo e aveva praticamente lo spioncino piccolino con la lampadina dietro da cui si riusciva a vedere il canale. Ah sì, e ci voleva un mezzo di gradimento per guardare il canale che stavi usando. Lo so, purtroppo è così, prima erano così, c'erano tanti di baracchini, non solamente le radio, ma tanti altri, anche l'HB23 era così. No, l'HB23 c'era lo smitterino, sì, ma c'era sempre la manopola così rotonda, con tutti i numeri attorno, eccetera, ma ce n'erano tanti altri anche. No. Mi sembra che ne ho anche qualche altro io, boh, non me lo ricordo. Boh. Vabbè, se io non faccio pulizia te la conduco. Tanto avrebbe dentro il scatolone conservato e non utilizzarli equivale a non averli le cose. O perlomeno le regalo. Vabbè, dai, comunque. Avanti, Daniele. A Parrogio, dai, che ne approfitto, è qua, è pronto. Ragazzi, ci ascoltiamo domani se coincide, dai. Buon proseguimento e buon tutto. Gianni, tu quando vuoi fare la prova, fai uno squillo, il numero ce l'hai. Non ci sono problemi. Va bene, dai, riprendetevela e a domani. Ciao ciao. Ehi, Daniele, vabbè, mi truffo io veloce. Niente, vabbè, al limite facciamo così, sempre se ti va bene. Ti mando un messaggio, ci mettiamo d'accordo, ci becchiamo in verticale, così se riesci a passarmi questa antenna, così provo a smanettarci. Vabbè, magari ti mando un messaggio stasera o domani su Telegram e ci aggiorniamo, ok? Scappa Gianni, va bene, tu ne hai Rosmetro? Già lo busco il Rosmetro, non ti preoccupare, tranquillo, già lo busco. Ok, così in base a quello ti fai la tarattura, dovrebbe essere già taratta, ma una controllata non li fa mai male, perché lo stavo usando io sino a poco tempo fa, qualche settimana fa. Ok, dai, chiudo, che sennò qua mi staccano la corrente, dai, ci sentiamo domani, ciao ciao. Ciao Dani, ciao, buona continuazione, buona carica. Ok, ciao Daniele, ciao, a domani, ci sentiamo domani, dai. Avanti, un bel pezzo, per i saluti a Daniele. Sì, dai, ci aggiorniamo e ti mando un messaggio su Telegram. E vediamo un po', dai, poi già sistemiamo tutto, vediamo un po' cosa succede. In attesa di news, dai. Ok. Così almeno proviamo questa boomerang, vediamo un po' cosa succede. Tutto incastri, bisogna incastrare tutto, alla fine è un puzzle con tutte le varie porzioni, quindi bisogna incastrare bene tutto. da una parte all'altra. Va bene, avanti giù. Ok, io riprendo e vi saluto, dai, ci sentiamo domani. Grazie per la chiacchierata, per la compagnia e ci sentiamo domani, dai. Ascolto fino a lì e poi chiudo. Vai Gianni in doppio russo. Ehi, ciao, chiudo, dai. Buona continuazione di serata, grazie per il consiglio. Alle prossimine, non so quando, ma già ci sentiamo. Ciao Gianni, io lo freddo. Sto chiudendo anch'io che vado giù a portare il cane, dai, ciao. Dai, faccio QRT anch'io, quindi facciamo un QRT generale. Grazie del QSO, della chiacchierata. Niente, un saluto a tutti, buon proseguimento e ci si sente alle prossime. Ok, ciao ciao. Ciao ciao ciao ciao. Oggi mi ha fatto piacere il programma di Rebaba. Anche a me, anche a me. È stato un QSO discreto, dai, stasera. Almeno se no parliamo di qualcosa di importante su questo canale, a differenza di qualche altro canale che parlano di cretina. Vabbè, ciao, senza polemiche, ciao. Vabbè, dimenticavo di salutare chiunque fosse in ascolto di QRX sul 10, un salutone anche a loro e alle prossime. Ok, ciao, ciao, già, ciao.